60 che ci aveva, l'HF, due strumenti di cui un PM1000 che è lì nella vetrina dei baracchini, un altro strumento che poi, vabbè, quello l'ho fatto, che era uno strumento HF della Diamond, antenne, antennine, cavi, spezzoni, già tutti pronti, un 3x3 da tavolo, quello grigio che c'era lui, un bel po' di roba, e l'altra, i baracchini e tutte le altre cose ce l'ha preso in altro. E il microfono con l'amplificato, quello che c'era che sparava a me, dovevi più qua. L'MB più 4 se l'ha preso quell'altra persona col burattino, io mi ho preso il 3 più 3 e l'MC60. E poi vabbè, purtroppo ha fatto una brutta scelta, dai. È brutta, infatti non sono voluto andare lì, sono andato a casa di Angelo, Angelo ha recuperato tutto, anche il computer, tutto dalla moglie, si è portato tutto a casa, anche la macchina, infatti la macchina mi aveva detto se la volevo ma a me non mi serviva, lui invece cazzo ho fatto male a non comprarla, perché adesso mi sarebbe servita, visto che vabbè, c'è anche fuori strada, ma non lo volevo mettere in funzione, invece sono stato costretto, capito? E quindi la piccolina, la Toyota ce l'ha presa di nuovo mia figlia, e io sto usando il fuoristrada. E vabbè, è una scelta che non si può manco raccontare e definire. Infatti quando ne ho parlato con Angelo ancora non si riusciva a capire il perché. Vabbè, pazienza. Carlo, a te il microfono, cambiamo discorso. Benemera, sì. E io stavo controllando le stazionarie, attaccato, salgono da 1,1 a 1,3, 1,4, non di più. Ho provato sul 10, sul 20, sul 10, sul 40 e la situazione più o meno è quella lì. Quindi stazionarie, come diceva Gianni, le stavo controllando, però non sono capito, attaccato non salgono più di tanto. No, è giusto, è così che deve essere, anche a me se si arrivano così. Molto c'hai di differenza attaccato e no? Sale di 2, capito, se non sono attaccato è a 1, 1 e 1, capito, invece attaccato sale 1 e 3, 1 e 4. Non è niente, non va, già va bene, lasciala stare così, no, non va a toccare l'antenna, va benissimo. Va benissimo, l'importante è che non superi l'1,5, né sì, allora devi tarare, però già va bene. Sì, esatto, per adesso diciamo mi accontento, dai, non posso fare altrimenti. E quindi stavate dicendo che avete recuperato un po' di radio di natalino, sì, meglio così, dai, almeno rimangono a gente che ha la passione, almeno quello, tanto lui ce l'aveva da tanto tempo, è meglio che sia così. Vai Gianni. A voglia. Eravamo ragazzi, ci avevamo le fidanzate, allora ci trovavamo tutti a Sacro Cuore quando facevamo la ragazza, poi ce l'andavamo tutti al pub insieme, oppure ci fermavamo lì a parlare, e eravamo sempre insieme, tutte le sere. Vabbè, d'accordo, infatti, dai. Cambiamo discorso, come ha detto Claudio prima, dai, è giusto un accenno, dai, per ricordarlo. Tanto siamo in periodo questo della commemorazione, già va bene. Stasera ho visto che è entrato anche Marco, abbiamo fatto una chiacchierata come dicevo prima, e anche Gianni, l'Uprofessa, è entrato e stavamo chiacchierando una mezz'ora buona, forse anche di più, intorno alle 17, capito? Poi ci siamo dileguati nelle faccende domestiche e quindi adesso ho alzato il volume e qualcuno, dai, già sta entrando ancora sul 10, vuol dire. Sì, ma se uno c'è da fare inutile che tutti dicono non c'è nessuno e non entra. E gente che prima diceva non c'era nessuno, adesso che c'è gente non entra, capito? È solo per criticare e basta. E questa è una cosa che ci sto, già, ci sto, perché a me non me me l'hanno detto, entra, c'è il trascinatore, entra, siamo tutti in radio, io ho entrato quasi tutti i giorni, la sera, di mattina non posso, la sera, però, non l'ho mai sentito. La mattina non entro manco io, perché la mattina mi faccio le faccende di casa, cucino, faccio, vado a farmi la spesa, quindi non ho tempo la mattina, però la sera se uno c'ha la passione invece di stare a fare solo l'ascolto entra pure. Ma infatti no, ma questo è per una persona che mi ha detto entra, ma come vedi io se ho degli impegni particolari la sera mi faccio sentire, ma se sono a casa con queste giornate così che sta già, capito? Non dico di entrare di sabato sera e di domenica sera, perché magari esci, vai a fare un giro, me ne vado al ghiero, la mamma, o qualcosa a mio fratello, insomma, a sentire la mia sorella, ma si esce, no? Il sabato durante la settimana e la sera si possono fare due chiacchiere. Se però altrimenti lì, allora cosa brutti che già fa. Vabbè. Lugarie! Io sono qua, sto leggendo la medicina da mettere nelle orecchie a Dea, che esce un fiacco, se c'hai cosa, come si chiama, vaffanculo, ma sono in bello. Ma l'ottite? L'ottite, sì. Allora, indicato farmaco che viene indicato a tanto delle ottite esterne, delle infezioni cutanee, superficiali, un cane e gatti. È una speciale topica che combina un antibiotico, okay. Come si chiamano già là, gli acari? Si sprega l'orecchio interna. Il cerume. Vabbè, ci sto trovando i punti, ma già puzza. Ma il cerume? Ancora me l'ho fumato. Fumato, anche il cerume da non fumo esci. La sigaretta me l'ho sfumato, sulla sigaretta me l'ho fumato. Ogni giorno io le pulisco le orecchie, tutto quanto, gli occhi. Ma infatti, senta il cotton fiocco, però, col coso bagnato appena di acqua ossigenata o di capito, gliele pulisci. Sono a 30 anni, l'organo mio, e c'ha le orecchie perfette. Io tutti i santi giorni, gli occhi e cosa, adesso addirittura sto mettendo anche il collirio negli occhi, perché come sta, l'entra esci, ha preso un colpo d'aria, c'aveva gli occhi rossi, sto mettendo il collirio, però le orecchie va al cane, vanno pulite tutti i giorni, lui, perché altrimenti li si formano, i tappi di cinume diventa sciolto l'organo. Adesso prendo Clark, ho contato fiocco, però davanti, proprio sopra, la leggero, poi si forma lì, però piano glielo pulisco. No, devi usare la salviettina umidificata e col dito all'interno della salviettina, pulisci e non devi andare più avanti, se no col cotton fioc glielo spingi fin dentro. Io le pulisco con le salviettine, quelle umidificate, profumate, eccetera, capito? Devo stare attenti, adesso ti diventa sopra il cane. Non so quello mio, che va a 13 anni. Vai Carlo, un attimino arrivo subito, vado a piparmi una cifra. Io le pulisco anche i denti, sarò esagerato, ma ho un liquido che li pulisce i denti. Sì, bisogna tenerli un po' puliti, capito? Se no sono soggetti i cani sempre a prendersi qualche piccola infezione, però se gli sta mettendo Luca le gocce antibiotiche sull'orecchio dovrebbe passargli almeno il prurito, il fastidio. Poi una volta che gli è passata l'infiammazione, allora si fa consigliare, capito? E può fare la pulizia dell'orecchio, capito? Magari con della schiuma che poi porta fuori le sporcizie e poi col cottone pulisce tutto quanto. Vai Luca, è impegnato deve essere, dai, col cane, sicuramente ha fastidio. E così è, quando c'è gli animali se ne devi prendere cura, vero Gianni? Più di quello che ho fatto io, cioè quando era piccolo aveva un problema, il mio, che usciva sempre sangue dal pelo, ma sangue mi sporcava tutto, tutta la casa, un casino, riusciva a spruzzo proprio, l'ho portato anche dal veterinario più volte, me l'ha spiegato che era un accista che magari si asciugava dandogli questa cura, e infatti me l'ha per una settimana praticamente l'ha reso sterile, e poi praticamente è passato da solo, però aveva questo problema che non era da poco, perché mi preoccupava. Lo immagino. Sì, gli animali sono così. Io ne ho avuto tanti di cani in passato, babbo faceva il veterinario, quindi ne ho avuto di tutti i tipi, da quando ero piccolino, anche altri animali, non solo i cani, però di cani ne abbiamo avuti tanto. Una volta abbiamo avuto un seguggio femmina che praticamente pensavamo fosse incinta, aveva aumentato le mammelle, eccetera, invece era gravidanza isterica, cioè la cagnetta era andata in calore, però non aveva trovato nessun cane perché stava sempre in un cortile interno, e quindi in automatico gli ormoni gli salgono e gli fanno sviluppare il seno come se fosse incinta, però poi vanno incontro a forme anche tumorali in questi casi qua, quindi gli devi asportare tutto, un casino, capito? Quindi alla fine è meglio farli sterilizzare, così eviti tutti questi problemi. Io li sterilizzo, li fai accoppiare almeno una volta per evitare queste cose qua. Purtroppo la natura è così. No, ma Tyson ha avuto quel problema lì e ho speso un sacco di soldi. Le medicine costavano 120 euro ogni volta. Una scatola di medicine 120 euro, erano un po' di soldi. Lo credo. I soldi per i farmaci, insomma, per uso animale ci vogliono lo stesso, perché sono anche abbastanza costosi, capito? Se vai poi dal veterinario, te lo visita, devi pagare anche la visita, poi ti dà la prescrizione, e alla fine così ci spendi quattrini, dai, però a volte, dai, secondo l'animale ne vale anche la pena, se, soprattutto quando sono cani che ti fanno compagnia, si devono, insomma, aiutare in quel senso. Io se l'animale ce l'ho, sia i cani, sia i pappagalli che ho, li tratto come se fossero figli, faccio tutte le cure possibili e immaginabili. Sarò anche magari esagerato in certi casi, però a me mi va bene così. Io per dire, le gabbie dei pappagalli le pulisco ogni giorno con aceto e acqua, li faccio uscire, li libero, poi in questo periodo, Carlo, il pappagallo, uno si coccola, proprio si cerca le coccole, lo accarezza, si fa accarezzare, prima la mano la temeva, si fa accarezzare, si fa le coccole, si strufina tutto quanto, e ciò che è strano. Così è. E niente, vediamo che ore abbiamo fatto. 19.36, subito. Ora di cena, non so cosa mi preparo, ma già ho un po' di tutto in frigorifero. Ancora non ho deciso. Stavo facendo il cambio di lenzuola e coperte prima, perché sembra così di notte, già scende un po' la temperatura. E quindi mi sono messo un copriletto più pesantuccio, dai, rispetto, ne avevo uno leggero, un trappuccino leggero, per non stare lì con aggiungersi coperte, ho detto mi metto una trappuccia un pochettino più pesante, e così almeno me ne sto tranquillo e pacifico di notte. Io quest'anno mi sono cambiato tutto, ho cambiato materasso, mi sono comprato il piumone nuovo, mi sono comprato le lenzuola nuove e ho fatto il letto tutto perfetto, tutto nuovo. Io lo stesso, il letto l'ho preso nemmeno un anno fa, tutto nuovo, materasso, eccetera, il letto contenitore, così sotto ci posso mettere le coperte, le cose che servono, capito? Poi ogni tanto ci passo l'aspirapolvere, ne ho preso il Dyson, il V15, ed è una bomba quell'aspirapolvere, capito? Puoi anche mettere sotto vuoto le cose, se c'è i sacchetti, cioè la bocchetta per il sottovuoto, perché va in aspirazione, capito? Quindi di Togliese, Salaria, me ne ero con fatte diverse di quelle buste dove c'è la valvola e ci attacchi la bocchetta e tieni le cose pulite, profumate, e quando ti servono per la stagione riapri tutto ed è bello profumato come se fosse appena uscito dalla lavatrice. A te Gianni. Sì, anche io sento quelle lì, anche io. E adesso devo cambiare la lavatrice perché non mi sta più entrando l'acqua. Vado a fare lavaggio e non mi entra l'acqua. Magari guarda, può essere, c'è una valvola di ritegno, magari è ostruita quella, si è bloccata, sostituirla è una fesseria, devi levare il tappo superiore, ovviamente stacchi la spina, stacchi l'acqua, la blocchi e c'è la valvola lì che si può sostituire. E se è quella, se non lo sai fare tu chiami qualcuno, ma se lo fanno al volo, capisco, e non è detto che devi buttare o cambiare la lavatrice. Ma infatti, perché nella vaschetta l'acqua entra, perché l'ho aperta mentre stava funzionando, nella vaschetta entra. Allora non lo so, è meglio che la veda qualcuno prima di cambiare, magari si può aggiustare, capito? E magari ti dura altri 2-3 anni e vai avanti così. Se invece vedi che il gioco, insomma, non vale la candela, come si dice, allora quel punto la cambi. Il problema è che se chiami te che con vuole 90 euro sono per venire a casa. Magari qualcuno non lo conosce a titolo di amicizia, eccetera, oppure si chiama quelli più economici, io non lo so, l'ADU forse le fa queste cose, però non ho idea di quanto ti possa prendere. Che cosa già? Non mi sta tirando più l'acqua la lavatrice, si è bloccata. Ma te lo faccio il numero che ha fatto le Fabrizio? Manda. Scusa, ti chiami a Sergio? Io sto aspettando che l'aria, perché anche l'aria c'è, praticamente non si blocca ogni tanto. Capito? Chiami al fratello Fabrizio, se hai il numero, dici che te l'ho fatto io, si avvicina, è una persona capace, è una persona che fa gli interventi, so, fa quel lavoro e poi ti tratta bene. Perché l'acqua arriva sino alla vaschetta dove metti il detersivo e l'ammorbidente, ci arriva di l'acqua, perché l'ho aperta mentre funzionava e si sente e arriva l'acqua, si va dentro, però non arriva nello blocco. E là c'è qualche intaggiamento, ti cambierà il tubo, o te lo pulisce, non lo so, comunque te lo passo il numero. Ehi, a fare la cortesia, passamelo che è un pochino. Blocchiamo quando vediamo un po' se si può aggiustare, la mia è una Whirlpool, non è una lavatrice di cavolo, c'è stelle in acciaio. Anche quella di Daria, uguale quella lì, da 8 kg, cioè 5 kg va bene da sola, però sempre funzionato bene, invece la base si è incasinata, va bene, aspetti, passo il numero, poi vi saluto che vado a rimettere il giornale, ciao raga, a domani. Ehi, allora sto chiedendo anche io, ciao Claudio, ciao Carlo, ciao Luca e tutti gli altri amici che sono all'ascolto, dai, corriti per me che vado a portare giù il cane che è già tardi, ciao! Bene Mera, ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Luca, dai, anche io chiudo, magari rimango, lo lascio acceso se poi più tardi entra qualcuno. Se no, buona serata a tutti, alle prossime. Ciao ciao Carlo. Ehi, allora, ciao a tutti, io sto cenando. Alla prossima, ciao ciao.